com'è stato? Boh, non lo so, cioè mi sentivo in mezzo alla natura, tipo ai paesaggi, vabbè, Allo zoo, boh.